America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, è qualche tempo che non parliamo di solo andata e vorrei fare una chiacchierata per, diciamo, una delle nostre puntate di coloro che si comprano un biglietto di solo andata per gli Stati Uniti con Enrichetta Ravina, professoressa alla Business School di Columbia University, una delle più importanti del mondo. Ecco, Enrichetta, la chiamo per primo nome perché ho scoperto che lei ha studiato all'Università di Torino, la Facoltà di Economia, dove mi sono laureato anch'io. Buongiorno, sì, anch'io ho fatto economia all'Università di Torino. Ecco, ma diciamo subito, economia a Torino dove? In Piazza Arbarello ancora oppure lassù nella nuova facoltà? Nella nuova facoltà. Scusa, a questo punto, essendo ex allievi, passo al tu, ma... Ecco, Enrichetta, beh, insomma, Piazza Arbarello, la facoltà a Torino, chi mi ascolta da Torino lo sa, e beh, avevo un che di leggendario, lo sai, ne sei cosciente? Sì, certo, so che la facoltà era al centro di Torino, era molto più piccola, più raccolta, però io sono stata molto contenta anche della nuova sede. Ecco, alcuni di quelli che insegnavano ai miei tempi, beh, credo che insegnino ancora, sono stati magari i tuoi professori? Sì. I miei professori erano Fabio Pagliano, Elsa Fornero, Mario De Aglio, Franco Reviglio. Beh, lo dico ai miei ascoltatori, hai avuto un exposure, diciamo, con degli elementi importanti dell'economia italiana. Sì, sono molto contenta dell'università e della formazione che mi ha dato. Ecco, come sei arrivata in America? Com'è che a un certo punto scegli di venire qui? Tanto come sei venuta? Perché sei venuta a studiare qui? Sono venuta in America abbastanza per caso. Durante il periodo dell'università ho fatto uno scambio con l'Università di Boston e quindi sono incominciata ad essere interessata alla ricerca e alla possibilità di fare un dottorato. A quel punto, nella mia disciplina, economia e finanza, i dottorati negli Stati Uniti sono i migliori. Sono stata presa, ho ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione Einaudi di Torino per il mio primo anno e dalla Banca d'Italia con la borsa Stringer per i due anni successivi. Ecco, no, scusa, borsa Stringer, beh, insomma, la borsa Stringer è una delle più prestigiose che si può vincere per economia, le Mortara Stringer. E se non sbaglio, le Mortara Stringer sono poi le borse di studio che, diciamo, danno quasi un accesso automatico al centro studi della Banca d'Italia, quindi all'ingresso nel Sancta Sanctorum, con una carriera straordinaria all'interno della Banca d'Italia. E tu però hai scelto di restare qui, di restare in America? Sì, ho esplorato questa possibilità e ho fatto un concorso che viene offerto a coloro che ricevono la borsa Stringer, ma poi ho deciso di fare ricerca qui negli... Scusa, ma il concorso l'hai vinto? Sì, l'abbiamo vinto in tre. Ecco, allora cominciamo a dire, tu hai vinto un concorso e hai rinunciato a un concorso che tu hai vinto per entrare in Banca d'Italia per venire a fare un PhD e comunque per venire a studiare e a insegnare poi negli Stati Uniti, giusto? Quindi questa è la tua scelta di un biglietto di sola andata. Che cos'è che ti ha motivato a venire qua? Perché credo che chi ci ascolta è sbalordito, dice, ma come? Chi è che in Italia vince un concorso e poi rinuncia? La Banca d'Italia è un'ottima istituzione, ero contentissima di aver vinto. Il motivo per cui ho deciso, almeno nel breve periodo, di rimanere qua era la possibilità di lavorare in una grande università, di fare ricerca, di avere accesso al mondo finanziario, ed è per questo che ho deciso di venire a Columbia Business School. E una volta che sono rimasta mi sono trovata molto bene e quindi penso che rimarrò nel lungo periodo e che questo sia un biglietto di sola andata, anche se non si sa mai. Beh, certo, non si sa mai, però tu per esempio a Columbia Business School lavori, immagino, o sei a contatto con premi Nobel come Joe Stiglitz, per esempio. Sì, è il mio vicino di ufficio. Ecco, tu sei vicina d'ufficio di un premio Nobel, però hai preso un rischio nel venire qui, perché comunque non sapevi che saresti finita, diciamo, di fianco all'ufficio di un premio Nobel. È vero. Qui negli Stati Uniti il mercato per i professori è molto mobile ed è anche molto rischioso, perché quelli che fanno bene finiscono in grandi università, ma altri rimangono disoccupati e poi abbiamo quello che viene chiamato il tenure track e quindi o pubblichiamo oppure veniamo licenziati. Quindi il nostro lavoro è estremamente instabile. Ogni anno abbiamo una review e in base alla nostra performance, a quanti articoli abbiamo pubblicato, alle conferenze a cui siamo andati, alle presentazioni, veniamo valutati e rinnovati per l'anno successivo. fino a quando non prenderemo tenure, e allora stiamo più tranquilli. E tu ancora la tenure non l'hai presa? No, ancora 2 anni davanti a me. Bene, beh, però vedo che stai pubblicando a ritmi serrati. Dunque, in qualche modo, è un sistema migliore, secondo te, questo universitario americano rispetto al baronato italiano? È un sistema migliore per i giovani, perché se sono bravi hanno accesso a risorse e vengono trattati allo stesso livello di altri che sono nel sistema più a lungo. È possibile che questo sia uno dei motivi per cui tante persone vengono negli Stati Uniti e creano una massa critica di ricercatori, possibilità di collaborazioni e di creazione di nuove idee che non ci sono in altri posti che sono più strutturati e meno mobili. Vita personale, com'è vivere per un giovane professore come te a New York? Ti manca la famiglia in Italia? Hai un gruppo di amici? Com'è la vita? Si lavora moltissimo? A New York lavorano tutti tantissimo, non solo professori che vogliono avere tenure, ma banchieri, persone che lavorano nel mondo dell'arte e della moda. È un posto interessante perché tante persone vengono a New York da sole per sfondare nella loro area di scelta e pertanto sono molto più aperte a interagire con le persone, fare nuove amicizie. E alla fine Manhattan è un'isola abbastanza piccola e quindi si conosce molte più persone di quanto uno potrebbe pensare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il nuovo album dei Daft Punk, Random Access Memories, ha conquistato la vetta della classifica Billboard dei dischi più venduti negli Stati Uniti per la seconda settimana di fila. E dunque dei Daft Punk, Instant Crush. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.